Buongiorno a tutti. Ora nel corso di Mishnah stiamo studiando l'ultima Mishnah del quarto capitolo del trattato di Pesachim. Commentatori dicono che questa Mishnah in realtà è stata aggiunta dalla Baraita sulla scia della Mishnah precedente, visto che nella Mishnah precedente, quando stavamo parlando della vigilia di Pesach, come in questo capitolo stiamo vedendo diversi aspetti del lavoro della vigilia di Pesach, e avevamo fatto nella Mishnah precedente un elenco di sei comportamenti tenuti dalla comunità, i cittadini di Gerico. La Mishnah aveva detto che tre di questi, nessuno di questi comportamenti erano ben visti dai Chachamim, ma per tre di questi hanno protestato proprio, per gli altri tre hanno lasciato fare. Sì. Ora, sulla scia di questo, viene citata qui come eccezione, normalmente nella Mishnah non abbiamo delle Beraitot, ma qui viene citata come eccezione una Baraita, che prende la forma dell'ultima Mishnah di questo capitolo, dove si elencano in maniera simile sei comportamenti, però non c'è un legame diretto con il nostro capitolo, anche se l'ultima di queste cose è un po' più legata delle altre. Grazie. Allora vediamo di cosa si tratta. Una Mishnah molto interessante da vari punti di vista. Vediamo cosa dice. Shisha Devarim, sei cose, Asa Chizkiyahu Amelech, fece il re Ezechia, Chizkiyahu. Sei comportamenti, sei cose specifiche, ovviamente non fece sei cose in tutto il suo regno, sei cose di cui vorremmo parlare qui, sempre rispetto al come sono state viste queste cose dai Chachamim. E la Mishnah dice, al Sheloshah Hodulo, per tre di queste cose i maestri erano d'accordo con lui, approvavano il suo comportamento, mentre Ve'al Sheloshah, mentre per le altre tre dei sei, non furono d'accordo. Lo Hodulo, non furono d'accordo con questo comportamento. Allora, vediamo prima le tre cose per le quali i maestri erano sì d'accordo. La prima cosa, la Mishnah dice, Gerer Atzmot Aviv al Mita Shel Chavalim. Il padre di Chizkiyahu si chiamava Achaz, Achaz HaMelech, e i maestri lo chiamano un re malvagio, il padre di Chizkiyahu. A differenza del nonno e il figlio Chizkiyahu, che erano invece tzadikim, e cioè che nel loro regno seguivano il volere della Torah e dei profeti, a differenza di loro, Achaz era un malvagio, nel senso che fece fare tantissima Avodah Zarah anche nel Bet HaMikdash stesso e anche in generale, più tante altre cose che i maestri dicono che fece sì che sia chiamato Harasha, proprio il malvagio. E quando lui morì, tra l'altro morì abbastanza giovane, all'età di 36 anni, quando lui morì, il figlio Chizkiyahu, che prese il trono, non voleva dargli quel rispetto che normalmente nei funerali reali si dà al re, perché credeva che sia più opportuno, diciamo, comportarsi, come vedremo adesso che la Mishnah dice, anche per che questo sia come una capara, come un'espiazione per i suoi peccati nell'altro mondo. E quindi cosa fece? E innanzitutto che sia una capara nell'essere, diciamo, trattato in una maniera non degna per un re, e anche per dare un esempio, per Kiddush Hashem, per dare un esempio che chi non rispetta le cose poi alla fine non viene non gli viene dato tutto quel rispetto. Cosa fece? La Mishnah ha detto Gerer Atzmot Aviv al Mita Shel Chavalim. E, letteralmente significa trascinò, fece trascinare le ossa, quindi la salma del padre, su una bara di una bara, un letto, una come si dice? Una barella di fune, di corda, a differenza di quello che si faceva normalmente con i re, che si portava con gran cavoz, una grande bella bara o barella, eccetera. Lui lo fece portare come un poveraccio, e addirittura c'è scritto trascinare, come se tenessero solo una parte e trascinassero l'altra, e lo portarono ad essere sepolto non nel mausoleo, diciamo, dei re di Yehudà, bensì in un altro luogo. E per questa cosa che lui fece, la Mishnah dice, vehodulo, furono i maestri, non significa ringraziare, significa furono d'accordo, lehodot, c'è ringraziare e c'è anche ammettere o essere d'accordo. Furono d'accordo con lui, i Chachamim, su questo comportamento. Sembra strano? No, portare la salma così, anche senza essere re, per molto... No. Anche una persona normale portarla così. Però... Sì, però considerando cosa era il suo comportamento, hanno detto era giusto quello che ha fatto Chizkiyahu per i motivi che abbiamo detto. Ovviamente tenendo conto del contesto. Sì. Seconda cosa che fece Chizkiyahu, Kitet Nechash HaNechoshet, fece polverizzare il serpente di rame. Cosa significa? Leggeremo a breve nella parashah della settimana che c'era un momento in cui c'era una piaga nel deserto e c'erano i serpenti, no? Che mordevano e la gente moriva, eccetera. Allora, l'istruzione che diede a Kadosh Baruch Hu a Moshe, gli disse, fai un serpente di rame e mettilo in alto come uno stendardo e chiunque sarà morso dovrà guardare in alto e vedere il serpente e guardare questa cosa e sarà salvato. Cosa significa? I maestri dicono, credi davvero che il serpente di rame può farti morire o vivere? No, è che quando gli ebrei guardano in alto e si ricordano che c'è qualcuno in alto che solo lui può guarire, può farti guarire, eccetera, allora e pregano ad Akadosh Baruch Hu, allora avranno la risposta. Se guardano solo in basso significa non danno la fiducia ad Akadosh Baruch Hu, allora può darsi che non avranno nessuna risposta perché non fanno nessuna richiesta. Quando invece guardano in alto, allora era preso il serpente di rame sullo stendardo o in alto, era doveva essere un simbolo del guardare in alto verso Akadosh Baruch Hu. Esatto, ma dal momento che con il tempo la gente, visto che era stato conservato quel serpente di rame, era stato conservato negli anni e fu portato poi a Gerusalemme o comunque in Eretz Israel, e la gente iniziava ad adorare quel serpente stesso di rame, è diventata come una Avodah Zarah. Allora Chizkiyahu lo prese e lo fece polverizzare. Comunque, quindi, è rimasto questo simbolo fino a oggi? Sì, nella cosa delle medicine. Nella farmacia, cioè, nella medicina, sì. Nella farmacia, questo vero. Serpente col bastone. Anche nel Milan. Bravo. Vabbè. E su questo Vehodulo, su questo i Chachamim erano d'accordo, che ha tolto, diciamo, un inciampo, certo, che portava alla Avodah Zarah. La terza cosa, Ganaz Sefer Refuot. Questo è molto interessante. Dice, ha nascosto un libro di medicine, di cure. Cosa significa? Allora, qui abbiamo due visioni. Vi riporto due delle visioni che troviamo nei commentatori. La prima è quella di Rashi. Rashi dice che esisteva un libro di cui l'autore era il re Shlomo, Salomone, figlio del re Davide, di David Amelech, e in questo libro era scritto per vari tipi o tanti tipi di malattie o di patologie o quello che è, quali sono le cure e come ci si può curare. E ci si comportava in questa maniera: quando c'era un problema si guardava nel libro e ci si curava. Quando il re Hizkiyahu ha visto che questa è diventata una cosa molto pervadente e non ci si appoggiava più alla salvezza da Kadosh Baruch Hu, ci si dimenticava di questo, allora ha detto: visto che la gente non si appoggia ad Hashem ma si appoggia al libro, allora ha fatto nascondere. Nascondere significa sparire, diciamo, Genizah, no? Ganaz. Ha fatto nascondere il libro. E questa è la spiegazione di Rashi. Il Rambam Maimonide dice: non sono d'accordo con questa spiegazione. È come se dicessimo, dice lui, il Rambam, come se dicessimo che visto che la persona mangia e vede che si alimenta dal mangiare, allora non si appoggia da Kadosh Baruch Hu, si appoggia solo al mangiare. Allora dovremmo dire: non si può più mangiare? Se non ha senso. Ha un suo perché. Ha un suo perché. Allora Rambam dice: no, non è questo il significato della Mishnah. Il significato della Mishnah è, secondo il Rambam, che il libro delle cure di, non di Hizkiyahu, ma che Hizkiyahu fece nascondere, non era un libro dove c'era scritto: se hai questa patologia devi fare questa cura. Era un libro in cui si descrivevano gli effetti degli astri nell'astrologia e l'astronomia, quando è più prevalente questo tipo di energia o quel tipo di energia, e quindi più legato a un determinato tipo di comportamento, anche relativo ad una guarigione o ad una cura o una dieta, qualsiasi cosa che la persona ha bisogno, no? Legato a queste tzurot, a queste forme celesti, astri, eccetera. E il senso del libro era solamente per spiegare queste dinamiche, non per essere un ricettario per cure e guarigioni, per approfondire queste dinamiche che esistono nel mondo. Astrologia. Sì, un tipo di astrologia, che di nuovo, ripeto, era per teoria, per studiare, per approfondire come funziona l'universo, ma non per mettere in atto effettivamente ciò che era scritto in quel libro. Come dice, dicono i maestri, per esempio, anche riguardo diversi comportamenti dei goyim, che sia Avodah Zarah o anche altri comportamenti che i maestri che la Torah dice nel libro di Devarim: lo tilmad la asot che to avot goyim, non imparare a fare, a comportarti secondo gli abomini delle nazioni. Allora la Torah è molto esatta, dicono i chachamim. La Torah non dice non imparare, la Torah dice non imparare a fare. Cioè, tu puoi imparare per conoscere, ma non per mettere in atto. Quindi a volte, per alcuni aspetti, alcuni contesti di cui si studia e si impara, bisogna ritenere la teoria, ma non la pratica. Bisogna capire perché bisogna ritenere la teoria, perché bisogna anche sapere da cosa bisogna distanziarsi, in alcuni contesti. Ok? Allora, questo può essere valido fino al punto di teoria, ma non fino al punto di pratica. Quando vide Hizkiyahu che avevano esagerato con questo e avevano messo in pratica e avevano dato tutta la fiducia in queste, diciamo così, credenze popolari o comunque legati all'universo in una certa maniera, all'astrologia, eccetera, che non era per gli ebrei da mettere in atto, allora ha detto Ganaz, spiega Rambam. L'ha ha preso e l'ha nascosto. Questo e può essere. Guarire la gente allora? No, non era per guarire la gente, secondo questa spiegazione che abbiamo dato. Non era per guarire. Sì. Ok? È una cosa che è molto, molto rilevante oggi, io credo. Perché anche oggi noi vediamo tante credenze strane, legate per guarirti, guarda questa energia, guarda quella energia. Tutto valido, va tutto bene, però ci sono forse dei limiti, bisognerebbe approfondire di più per capire quali sono i limiti. Però forse in alcuni casi si esagera e si dà troppa importanza, che sia l'omeopatia o altri tipi, fior di Bach o cose così, che non per dire che non vanno bene, va approfondito, però a volte sono prese queste cose in esagerazione. E forse un po' di questo a cui allude il Rambam quando spiega questa cosa. In quel caso evidentemente era molto estrema la situazione e Chizkiyahu ha fatto nascondere il libro, Vehodulo, e i maestri hanno detto che sono d'accordo. Le tre cose invece per le quali non erano d'accordo, quali sono? Vediamo subito. Al Shlosha lo hodulo. Per tre cose non erano d'accordo. La prima cosa, kitzetz della tot shel heichal veshigran le melech Ashur. Letteralmente significa fece tagliare le porte del heichal, della parte interna del Bet HaMikdash, e li inviò al re della Siria, Melech Ashur. Cosa significa? È scritto nel libro di Melachim, il libro dei re, nei profeti, nel Tanakh, che per placare, per mandare tipo una tangente al re della Siria, che avrebbe voluto conquistare Yehuda, gli ha mandato un bel regalo. Che regalo gli ha mandato? Ha tolto dalle porte delle Hal la loro copertura in oro, la copertura in oro, e ha inviato questo oro al re di Ashur. Per lui era una tattica per salvare Israele, però i Chachamim hanno detto questa non era la cosa giusta, la maniera giusta di comportarsi. I maestri invece erano dell'idea che lui doveva avere più fiducia in Hashem in quel caso, o forse anche fare altre strategie, ma non togliere l'oro delle Hal e mandarlo al re della Siria. Ve lo hodulo, i maestri non erano d'accordo. La seconda cosa che fece era sempre legata al difendersi dal re di Ashur, di Assiria, Satam mei Gihon ha Elion. C'è una fonte di acqua che si chiama il Gihon, che ha diverse fasi nel suo scorrimento. La parte alta, Gihon ha Elion, la parte alta del Gihon, Mei sono da Maim, le acque del Gihon ha Elion, lo fece chiudere. Come si dice? Fece una diga. Fece una diga o qualcosa per fermare le acque a quel punto, perché era posto nella direzione, era il luogo del Mei Gihon, era nel luogo in cui sarebbero arrivati gli Assiri, e lui non voleva che loro siano facilitati con l'aiuto di queste acque, che sarebbero state per loro un grande aiuto, e quindi però lo hodulo, i maestri non erano d'accordo, prima di tutto anche per il discorso che dicevamo prima, che doveva avere più fiducia in Hashem. E seconda cosa, ha fatto male non solamente agli Assiri, ma anche a Israele stessi, per quello che lui aveva, il modo che lui aveva chiuso le acque, o dirottato, o chiuso, ha fatto sì che anche per Yehuda, per Israele stessa, non ci sarebbe stato tutto quell'acqua. Ha reso difficile anche per il proprio popolo. La terza cosa, e qui ci leghiamo un po' a Pesach, Iber Nisan Benisan. Cosa significa? Voi sapete che gli anni potrebbero avere un mese di Adar o due mesi di Adar. Come si decide se un anno deve avere un mese di Adar o due mesi di Adar? Allora oggi noi apriamo il calendario e vediamo quest'anno cosa abbiamo. Molto bene, secondo il ciclo generale dei 19 anni, eccetera, abbiamo alcuni anni in cui serve mettere un altro mese di Adar ed è già tutto previsto nel calendario lunario fisso. Però quando si faceva di mese in mese la santificazione del mese in base alla visione della luna da parte dei testimoni o nella mancanza di questa visione in base a quello che hanno fissato il Sinedrio, i Sanedrin, in quel momento, nel Rosh Chodesh stesso si decideva se era un mese di 29 o di 30 giorni e si santificava quel giorno che sia il trentesimo oppure il successivo come Rosh Chodesh, allora in quel caso ogni anno si doveva decidere se fosse necessario aggiungere un altro mese. Su cosa si basa la decisione? Soprattutto sul momento in cui viene Pesach. Perché Pesach deve essere un momento di primavera. E inoltre ci sono diversi fattori. C'è l'Aliyah, la Regel. Bisogna andare in al Bet HaMikdash, a Yerushalayim, per Pesach e per fare il Korban Pesach. Allora bisogna prendere in considerazione la presenza la nascita degli agnelli, bisogna prendere in considerazione la viabilità delle strade, se c'erano piogge pesanti hanno fatto sì che serva più tempo perché le strade diventino più, ci sia una migliore viabilità, eccetera. Ci sono tante cose da prendere in considerazione. Di anno in anno si decideva se è necessario fare un altro mese di Adar. Questo si può fare fin quanto ci si trova ancora nel primo mese di Adar. Prima che conclude il primo mese di Adar, si può ancora decidere di aggiungere un altro mese di Adar. Una volta concluso il primo mese di Adar ed entra il mese di Nisan, non si può più dire, ok, facciamo un altro Adar. No, è già Nisan. La regola è, Asur le Aber, è vietato fare un Ibur, che letteralmente significa incinta, no? Abbiamo la Shana Meuberet, l'anno incinto, diciamo così. È vietato fare l'Ibur di Nisan nel mese di Nisan stesso. Solo quando siamo ancora nell'Adar si fa l'Ibur di Adar, ma non di Nisan. Allora la Mishnah, oh bravissimo, la Mishnah ci sta dicendo che lui, quando era già entrato Nisan, aveva fatto un consiglio con i suoi ministri e con altri maestri che erano a Gerusalemme e ha detto no, dobbiamo posticipare per diversi motivi di preparazione dei Kohanim e a quel punto... Ha detto, faremo un altro mese di Adar. Anche se la Gemara dice che non è che era già il mese di Nisan inoltrato. In realtà era il 30° giorno di Adar, che era Rosh Chodesh di Nisan. E anche però su questo, anche qui, era già non fattibile per i Chachamim. E quindi velo hodulo, i maestri non erano d'accordo con lui e ritenevano che non si può fare l'Ibur durante il 30° giorno di Adar, perché è un giorno che potenzialmente potrebbe essere Rosh Chodesh Nisan già. Potrebbe essere il primo di Nisan. Perché in un anno normale, chiaramente, dove c'è un Adar, allora c'è Adar di 29 mesi, e il 30° giorno in realtà è il primo giorno di Nisan. E quindi non può diventare un giorno in cui si fa di nuovo un nuovo mese, perché appunto come dicevo si fa solo nel mese di Adar netto il Ibur, lo si decide, e quindi anche su questo i maestri non furono d'accordo con il comportamento di Chizkiyahu. Con questo conclude il capitolo 4 Makom Shenagu del trattato di Pesachim. Ora passiamo al capitolo 5 e vediamo la prima Mishnah del capitolo 5. Questi prossimi capitoli, in realtà fino al penultimo di questo trattato, quindi dal quinto al nono capitolo incluso, si parla delle regole del Korban Pesach. Noi abbiamo visto diverse regole, la Bedikat Hametz, la definizione del Hametz, eccetera. Ora arriviamo alle leggi che riguardano, abbiamo visto il Seder, abbiamo visto la vigilia di Pesach, ora arriviamo alle leggi, scusate, il Seder non l'abbiamo visto, lo vedremo nell'ultimo capitolo, ora vediamo le leggi che riguardano il Korban Pesach. E si inizia parlando degli orari, cosa che ci farà un po' comodo perché sarà un po' legato a quello che stiamo studiando degli orari delle Tefilot, mentre studiamo nel corso la Gemara, che ultimamente stiamo studiando appunto Tefilata Shachar, il trattato di Berachot, che tratta gli orari delle tefilot che corrispondono agli orari delle korbanot, come abbiamo visto. Quindi alcune cose le riconosceremo forse da quello che abbiamo studiato nella Gemara. In generale nel Beit HaMikdash, come sappiamo, ogni giorno c'erano due korbanot quotidiane, il korban tamid, una pecora la mattina, una pecora la sera, che veniva chiamato appunto tamid, quotidiano, E quali sono gli orari di questi korbanot quotidiani? Quello della mattina viene shachtato come prima funzione del giorno, ogni giorno, e l'orario è da quando si vede la luce, quando l'est è già illuminato, quindi dall'alba praticamente. E quello della sera inizia il suo orario alle 6 ore e mezza del giorno, significa mezza ora dopo il mezzogiorno alachico. 6 ore e mezza significa alle 6 ore è il mezzogiorno alachico, 6 orari alachici stiamo parlando, come sappiamo, no? Orari relativi al diurno, orari di luce. E chazzot e mezzo. Chazzot e mezzo, dal chazzot e mezzo, dal mezzogiorno e mezzo alachico, inizia l'obbligo del korban tamid del pomeriggio, shel ben harbaim. Non c'è nessun korban che viene sacrificato come tempistica dopo il korban del pomeriggio quotidiano, unica eccezione il korban Pesach, che viene fatto dopo il korban tamid del pomeriggio, ok? Quindi la Mishnah sta insegnando noi che tutto l'anno il Tamid, visto che era l'ultimo delle korbanot di tutto il giorno, allora lo si posticipava, non lo si faceva nel primo orario che è il mezzogiorno e mezzo alachico, lo si posticipava altre 2 ore e quindi alle 8 ore e mezza alachiche, 2 ore e mezza dopo il mezzogiorno alachico. Mentre invece quello di Erev Pesach, la vigilia di Pesach, visto che il 14, la vigilia di Pesach, dobbiamo fare il Korban Pesach e deve essere dopo il Tamid, allora in quel caso si anticipava il Tamid al primo orario possibile, come vedremo nella Mishnah. E quindi la Mishnah dice, Tamid, il Korban quotidiano del pomeriggio, Nishchat, lo si faceva shachtare ogni giorno normalmente, Bishmone umechetza, a 8 ore e mezza dopo l'alba, dopo il sorgere del sole. Allora significa 2 ore e mezza dopo il mezzogiorno alachico. E lì si finiva tutte le altre funzioni del Beit HaMikdash e si faceva l'ultima funzione che è appunto il Korban quotidiano del Tamid. La Shechita era in quell'orario. E poi Vekarev. Karev, dalla parola korban, veniva portato poi fisicamente, già pronto, pulito, tagliato come doveva essere, sul Mizbeach. Karev veniva sacrificato, beteisha umechetza, 1 ora dopo, alle 9 e mezza alachiche, significa 3 ore e mezza dopo il mezzogiorno alachico. Lì veniva concluso, perché 1 ora durava il tempo di preparazione, dalla Shechita fino a poter portarlo al Mizbeach. E alle 9 ore e mezza alachiche rimangono ancora 2 ore e mezza fino ad arrivare alla 12ª ora, quindi la fine degli orari diurni, durante i quali potevano fare altre cose che non sono korbanot veri e propri, ma sono funzioni del Beit HaMikdash, come il ketoret del pomeriggio, l'incenso che si porta nel piccolo misbeach interno d'oro, la mincha, cioè l'offerta farinacea che accompagna il tamid pomeridiano, l'accensione della menorah, anche tutte queste cose potevano essere fatte nel tempo rimasto tra il sacrificare il tamid e la notte proprio, il tramonto proprio. Questo accadeva tutti i giorni dell'anno, a differenza della vigilia di Pesach, Be'arvei Pesachim, nelle vigilie del Pesach, visto che il Korban Pesach, appunto, come spiegheremo più avanti, deve essere shachtato dopo il Korban Tamid, allora il Tamid lo si faceva shachtare Nishchat Besheva Umechetza, invece di 8 ore e mezza dopo l'inizio della giornata, 7 ore e mezza, 1 ora di anticipo. Quindi significa 1 ora e mezza dopo il Chatzot Alachico. Vekarev Bishmone Umechetza. E quindi la preparazione di 1 ora e il Korban veniva portato sul Mizbeach a 8 ore e mezza, che sarebbe stato l'orario della Shechita nei giorni normali, quindi 1 ora prima. E quindi questo perché? Per dare più tempo per fare tutte le Korbanot Pesach. Questo vale ben Bachol, ben Bashabbat, che sia il giorno vigilia di Pesach caduto di giorno feriale o che sia caduto di Shabbat, la regola è ugualmente valida, ok? Perché anche tutto l'anno non si faceva differenza tra Shabbat e giorni feriali per ciò che riguarda l'orario del Korban Tamid. In teoria Shabbat avrebbero potuto anticipare. Perché? perché il motivo per cui lo si posticipa negli altri giorni è perché si dà tempo, visto che deve essere l'ultimo Corban, ricordiamoci, si dà tempo a tutte le offerte personali, se uno ha fatto un voto, né da rim, né da voto, un'offerta, un voto che si è assunto di portare un Corban, tutte queste cose personali si facevano in quell'arco di tempo pomeridiano prima del Corban Tamid. Shabbat non si fanno queste cose, si fa solo quello che è dell'obbligo del giorno, non le cose in più di offerta personale. Di conseguenza, in teoria, Shabbat si avrebbe potuto anticipare il Tamid, ma non si è fatto. Si è fatto un orario fisso, tutti i giorni, il Tamid alle 8:30 viene Shachtat. Allora qui la Mishnah ci sta dicendo, nonostante la Mishnah ci sta dicendo che anche per ciò che riguarda il Pesach, non si è fatta differenza tra Shabbat e altri giorni, se la vigilia di Pesach, anche se fosse Shabbat, comunque l'orario del Tamid è quello. Tutto l'anno il Tamid è alle 8:30 e Erev Pesach, vigilia di Pesach, il Tamid è alle 7:30 senza entrare in differenze tra Shabbat e non Shabbat. Se invece, unica eccezione è la seguente, Chal Erev Pesach liot be Erev Shabbat, se la vigilia di Pesach, il 14 di Nisan, cade non di Shabbat ma di venerdì, ora qual è il problema? Il problema che nasce è che noi di venerdì dobbiamo fare il Korban Pesach e dobbiamo anche arrostirlo prima che entrasse Shabbat. Deve essere pronto per mangiare, almeno quasi pronto per mangiare, prima che entra Shabbat. Allora significa che abbiamo bisogno di più tempo, siamo più pressati in quella situazione. Di conseguenza, in questo caso, che la vigilia di Pesach viene di venerdì, viene della vigilia di Shabbat, nella vigilia di Shabbat, allora questo è il caso in cui si anticipa il Pesach non solo di un'ora, il Tamid non di un'ora ma di 2 ore. In questo caso Nishchat Besheshu Mechetza, il Tamid viene fatto alle 6:30, il primo orario possibile, mezz'ora dopo il mezzogiorno alachico, come è la halakha biblica, cioè come è la regola Mina Torah, Vekarev Besheva o Mechetza, e i preparativi sempre di un'ora viene portato sul Mizbeach, Karev, sacrificato alle 7:30 lachiche, quindi 1:30 dopo il mezzogiorno. Vea Pesach Acharav, subito dopo si inizia con i Pesachim, così abbiamo un'altra ora in più per occuparci del Korban Pesach e il tempo di prepararlo in modo tale di arrivare nello Shabbat nella maniera giusta. Benissimo, allora concludiamo con questo e la prossima volta si approfondiranno delle regole specifiche sulla modalità e l'intenzione nella preparazione, nella Shechita e nel Korban del Korban Pesach. Tadarabah.